the groove, boy, you've got to prove your love to me, yeah. Di Radio 23, amici di Into the Groove, ben trovati nel nostro meraviglioso, imprescindibile, straordinario, sublime salotto musicale. Oggi puntata specialissima, oggi puntata di Sant'Ambrogio, Sant'Ambrose, come si dice a Milano. Io che milanese, ahimè, non lo sono, ahimè, non si sa per quale motivo, ma insomma, non sono milanese, tant'è vero che oggi, per rendere omaggio a questa giornata meravigliosa di super dirette che ci propone la nostra amata Radio 23, io sono in diretta dal home studio vero, nel senso che oggi sono in Toscana, a Foiano della Chiana, in Val di Chiana, e vi sto trasmettendo dal mio studio domestico, anzi dal studio domestico di casa dei miei. Mi sono portato tutta l'attrezzatura grazie alle meravigliose e mirabolanti tecnologie, e sono davanti a un camino acceso che me la godo, che è una bellezza. Per rendere ancora più speciale questa giornata specialissima, abbiamo deciso di fare una puntata ad hoc che si intitola, mi schiarisco la voce, Borsette e Bacchette, ovvero sia le donne dietro i tamburi. Tacchi a spillo e piatti possono andare d'accordo? Sì, i piatti non sono quelli da cucina, intendo i piatti della batteria, ovviamente. Certo che possono andare d'accordo. Abbiamo esempi straordinari di batterismo al femminile e non perdiamo un minuto di troppo, cominciamo a parlarne subito. E allora, quando si parla di donne dietro ai tamburi, il primo nome che viene in mente in maniera prepotente e straordinaria non può essere che quello della grandissima Sheila Escovedo, ovvero Sheila E., come è il suo nome d'arte. Sheila Escovedo, figlia di Pete Escovedo, famiglia enormemente inserita nel mondo delle percussioni, naturalmente, e lei, figlia d'arte, il papà non la voleva percussionista, non la voleva batterista, ma lei, tenace, innamorata e soprattutto talentuosissima, si è ritagliata piano piano uno spazio all'interno della famiglia. Il papà l'ha fatta esibire, lei ha strabiliato tutti quanti, era ancora una ragazzina, quasi un adolescente, e insomma è sbocciato questo fiore, è esplosa questa stella e ha illuminato il firmamento della musica, regalandoci una grandissima interprete, una grandissima performer. Ovviamente Sheila Escovedo è anche una donna di una bellezza mozzafiato. Adesso magari è un pochino più grandicella, ma insomma negli anni d'oro, soprattutto negli anni 80, quando tutti quanti ce la ricordiamo seduta dietro i tamburi nei tour di Prince, ci lasciava a bocca aperta, e ancora se ci riguardiamo quei video là rimaniamo stupefatti da come una possa con i tacchi a spillo suonare la batteria così dannatamente bene. Allora, visto che lei viene da una famiglia di percussionisti, il suo approccio alla batteria è naturalmente molto molto percussionistico, e nel brano che ho scelto di farvi ascoltare, scritto insieme a Prince, si intitola Leader of the Band, la sentiamo suonare sia la batteria che le percussioni. In modo particolare la ascoltiamo suonare le timbales, che sono quei tamburoni di metallo che fanno un suono molto tipico della musica cubana, ad esempio nel son, no? E anche le congas a un certo punto la sentiremo suonare. Lei è ricchissima di inventiva, ma soprattutto ricchissima di talento, è velocissima sulle timbales, è una roba fulminante e sfolgorante. Ovviamente ha avuto anche una carriera da pop star, forse qualcuno se la ricorda per alcuni singoli che sono stati in classifica per un bel po' di tempo, ovviamente scritti assieme a Prince, che ha creduto in lei, che l'ha lanciata. Alcune indiscrezioni dicevano che avessero una relazione, pare che lei stessa l'abbia confermata oramai in tempi molto recenti e lontano da, diciamo, dal problema del gossip, ma insomma noi non siamo mai a fare gossip, siamo a parlare di grandi musicisti. Allora, Sheila Escovedo, Leader of the Band, ascoltatevi la prima delle nostre Queen alla batteria. Vai Sheila! Let's play piano! We'll be right back. si può suonare la doppia cassa con i tacchi a spillo? Sì, si può. Questa era Scile Scovedo, l'avete ascoltata e vi consiglio anche di andare a vedervela. Tra l'altro c'è un video bellissimo, magari lo mettiamo sulla nostra pagina Facebook, di lei che suona un drum solo al David Letterman Show, dove appunto ci mostra tutta la sua avvenenza e tutta la sua tecnica musicale, molto molto elegante, molto raffinata, ma anche con questa leggerissima vena di tamarraggine che tutto sommato non ci dispiace, anche perché Scile Scovedo è una che non si, come dire, non si vergognava di essere una gran femmina dietro i tamburi, anzi faceva di tutto per dichiarare questa sua femminilità. Batterie estremamente glitterate, abiti vistosissimi, capelli cotonatissimi, insomma era una che ci teneva a far emergere questa sua prepotente femminilità dietro i tamburi. Di tutt'altra pasta, tutt'altro stile di donna, e non, questo non vuol dire meno affascinante, perché anzi io la trovo assolutamente molto molto seducente, a prescindere dal fatto che sia una musicista o meno, è Cindy Blackman. Cindy Blackman è la batterista diventata, diciamo, famosa nel mondo, secondo me, per essere la batterista di Lenny Kravitz. Ha suonato con lui in una marea di dischi, ha fatto una valanga di tour, credo, per 11-12 anni. Anche io sono stato a vederla l'anno scorso, un anno e mezzo fa, insomma, non mi ricordo adesso di preciso. C'era lei dietro i tamburi, devo dire che è una forza della natura, perché è una batterista davvero, davvero talentuosa. E poi una che si è formata con grandi scuole, con grandi artisti, nel senso che lei è considerata anche una delle naturali eredi di Tony Williams, e Tony Williams è uno dei fari, dei numi tutelari del mondo del batterismo mondiale, e a Tony Williams dedicheremo sicuramente ampio spazio, non adesso, ma parliamo appunto di Cindy Blackman. Lei viene dal mondo del jazz, che è il suo primo amore, e al jazz sta tornando. Ma naturalmente una batterista che appunto ha una preparazione molto solida dal punto di vista tecnico, e anche da questa appunto l'eredità che gli viene da questo Tony Williams è fondamentalmente la grande musicalità e la grande attenzione al groove, appunto al feeling del pezzo. La ascoltiamo con un brano di appunto Lenny Kravitz, che è il primo che lei ha inciso. Ah, tra l'altro raccontava lei, appunto, dico un aneddoto così, non mi piace tanto l'aneddotica, ma ci sta. Questa audizione con Lenny Kravitz è avvenuta tramite una serie di amicizie comuni, e lei praticamente dice di aver suonato un pezzo al telefono. Lenny era rimasto convinto, l'ha invitata a fare questa audizione, ha scartato altri 30 batteristi e poi ha chiesto a lei di incidere questa canzone, che è I Belong to You, e da lì è iniziata la grande avventura di Cindy Blackman con Lenny Kravitz. Ci ascoltiamo immediatamente I Belong to You, mentre partono le note straordinarie di questo pezzo formidabile. Aggiungiamo anche che Cindy Blackman è attualmente la moglie di niente po' di meno che Mr. Carlos Santana. E voi direte, ha suonato anche con Santana? Certo, grazie a sua moglie. No, ci ha suonato prima, sostituendo niente po' di meno che Dennis Chambers, un altro mostro, quindi. You are the baby in my heart, you light my way in the dark, you are the ultimate star. You pick me up from above. Unconditional love takes me to paradise. I belong to you, and you, you belong to me too. You make my life complete. You make me feel so oh. Cindy Blackman, ovvero come ti costruisco un groove che spacca usando semplicemente il cross stick. Avete sentito questo, tutto il brano è giocato su questa leggerezza ritmica, appunto vi ricordate ormai cos'è il cross stick, no? Il colpo che si suona col dorso della bacchetta sul cerchio del rullante, stack, stack. Però un groove solido, perfetto, che fa girare questa canzone, ti porta, ti coccola, ti dondola, no? È una dichiarazione d'amore bellissima e Cindy Blackman da par suo la sostiene in maniera impeccabile. Però è una che non è che suona solo leggero, eh? Vabbè, ma l'avrete sentito i dischi di Lenny Kravitz, è una che pesta come una dannata e pesta benissimo. Tra l'altro, appunto, come ho detto, grande amore al jazz, dal jazz è partita, al jazz è ritornata. Cercatevi anche il suo disco solista che è straordinario e poi guardatevi qualche video, appunto, dove suona anche con Carlos Santana, dove secondo me, qua lo dico sottovoce, non è proprio il suo genere il Latin. Infatti lei suona spesso Corazón Espinado e lo suona con un'attitudine molto roccheggiante, molto forte, poco latina e molto più concreta. Allora, parliamo di nuovo di una grandissima donna e questa volta sì che è una batterista molto influente, perché fino adesso abbiamo parlato di due batteriste tecnicamente molto forti, molto dotate, bravissime, però diciamo che non sono ancora diventate dei modelli di riferimento per come dire, lo stile, no? Non so come spiegarmi, insomma, non sono dei punti di riferimento, sono sicuramente fonte di ispirazione e io spero che lo diventino per tante donne, perché voglio vedere sempre più donne dietro la batteria. Ce ne sono troppe poche ancora e le donne dietro i tamburi sono straordinarie. Ma quella di cui vado a parlare adesso è sicuramente una donna che invece ha influenzato una marea di musicisti. Va bene, lo dico subito: Mo Tucker, ovvero Maureen Tucker, che per i meno attenti è la batterista dei Velvet Underground. Che cosa ha Mo Tucker? Beh, innanzitutto una tecnica praticamente ridicola, nel senso che magari è bravissima, ma quello che ci fa sentire è pressoché il grado zero della batteria. Ma questo è funzionale alla musica dei Velvet Underground. Non poteva essere diversa la batteria nelle canzoni perfette dei Velvet Underground. E Mo Tucker è quella che si è inventata il modo di suonare la batteria senza star seduta. Praticamente si è messa la cassa, non la suonava con il pedale, la suonava con una mazzetta, una mallet si chiama, che sono quei bastoni, quelle bacchette con in cima quella specie di pallina da tennis molto piccola di feltro o di gomma, lei usava il feltro e usava la mano destra per suonare la cassa e la mano sinistra con una bacchetta normale su cui suonava il rullante e un tom. Una volta ha detto, aveva pensato di mettere un secondo tom, ma gli era scomodo, quindi suonava proprio al minimo indispensabile. Addirittura colpi di piatti credo che si possano contare sulla punta delle dita, perché ne usa davvero pochissimi. Ho letto alcune sue interviste di recente e nel preparare questa puntata mi ha fatto molto ridere il fatto che diceva: io non so chi è che ha inventato il pedale della cassa, perché quando tu suoni la cassa con il piede ti viene automatica la voglia di suonare il crash con la bacchetta. E quindi dice, probabilmente il pedale della cassa l'ha inventato qualche azienda fabbricatrice di piatti. Io che non usavo il pedale, i piatti non li usavo praticamente mai. Allora, Maureen Tucker, o meglio Mo Tucker, che ancora è una arzilla vecchietta, è quella che ci ha lasciato in eredità questo stile asciuttissimo, essenziale, proprio minimale, che però, appunto, come ci ha insegnato Franz Di Cioccio la puntata scorsa, era perfetto per i Velvet Underground. Quindi il miglior batterista non è quello più bravo, quello più veloce, il miglior batterista è quello più giusto per un progetto musicale. E allora ascoltiamoci la straordinaria e immortale I'm Waiting for the Man, e ai tamburi c'è lei, Mo Tucker. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? bad boy. You're chasing all women around. Oh, pardon me, sir. It's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. In black, he wore shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. La cavalcata arrembante, la rutilante, roboante, rombante batteria di Mo Tucker. Avete sentito un colpo di piatto? No, non ce n'era neanche uno. Questo cembalino, questa cassa, e il suo modo di suonare assolutamente dritto, costante e pulitissimo. Infatti, quando gli è stato chiesto, ma perché ti è venuto in mente di mettere la cassa sospesa, cioè di non suonarla con i piedi? Fa, ma perché? Quando suonavamo alla Factory da Andy Warhol, che stavamo lì a improvvisare, facevamo anche delle session, dei pezzi che potevano durare anche 20-25 minuti, fa, io mi stancavo. Allora, anziché affaticarmi, ho pensato che mettere la cassa in quel modo lì avrebbe funzionato meglio. E, dice, all'inizio la teneva sollevata su due sedie, ma durante i live questo non teneva tanto bene. Allora un amico gli ha fatto uno stand apposta e da lì è nato questo modo meraviglioso di suonare la batteria. Ovviamente io da batterista posso solo apprezzare la genialità e, ripeto, la funzionalità del ritmo all'interno di quella canzone là. Non è il mio stile, ma bisogna riconoscere che è assolutamente e innegabilmente un grande stile. Passiamo invece a tutt'altro stile e qua stavolta lo devo dire, una batterista che a me non piace per niente e credo che non piaccia alla stragrande maggioranza della comunità dei batteristi. Di chi sto parlando? Di una molto più recente, molto più contemporanea, ovvero sia Miss Meg White dei White Stripes. Meg White è una, secondo me, ragazza molto fortunata perché ha questo sodalizio artistico con Jack White, che invece è un genio della musica, un grandissimo chitarrista, grandissimo cantante, grandissimo performer, insomma è uno grande davvero, lei è batteristicamente molto scarsina. Non perché, oddio, io mi cambierei immediatamente la mia carriera con la sua, subito, senza pensarci nemmeno un istante, però c'è da riconoscere che il suo approccio allo strumento è piuttosto naif, ma al di là della semplicità delle linee batteristiche che usa e quindi della sua, secondo alcuni, assoluta incapacità di tenere un ritmo, nel senso, abbiamo sentito adesso Mo Tucker che inizia a una velocità, finisce alla stessa velocità ed è praticamente una drum machine, sembra un computer, tanto è precisa e tanto è capace di tenere un groove costante e sempre quello. Meg White invece è assolutamente incapace di suonare per due volte consecutive la stessa battuta. Secondo molti è uno stile voluto, secondo molti batteristi è uno stile incapace. Tuttavia, anche in questo caso è abbastanza funzionale alla realizzazione dei pezzi, perché Jack White evidentemente gli andava bene quello, vuole quello e quello funziona. Però quando ascoltate i live, provate a mettere, se avete voglia, insomma, se no fidatevi di me, mettete un metronomo e non va a tempo nemmeno se la leghi. Proprio una roba terrificante. Tuttavia, lo stile di Meg White è innegabilmente unico, se vuoi, appunto, per aspetti secondo me negativi, ma magari a tantissimi piace, quindi non mi permetto di sindacare oltre. Comunque sia, il successo mondiale ce l'ha avuto e se ha un merito è quello, ancora una volta, di aver dimostrato che si può essere delle belle ragazze e saper suonare benissimo la batteria. A proposito, prendiamo il lato positivo di questa mia critica. Pur non essendo una grande batterista, si può anche arrivare ai vertici delle classifiche mondiali senza saper suonare benissimo. Iggy Thump, i White Stripes. Oh, Allora, per molti, ripeto, questo suo come dire, andare un po' indietro, un po' in avanti con la cassa col rullante, insomma, sembra un effetto voluto, uno stile dei White Stripes. Secondo me è semplicemente che non gli riesce ad andare a tempo e l'hanno un pochettino aggiustata in questo modo, ma insomma, io penso male, come si dice, alle volte a pensare male si fa peccato, ma ci si indovina. Comunque sia, è innegabile che Meg White sia una batterista assolutamente di primo piano. Ultimamente, che io sappia, si è pressoché ritirata dalle scene, ha annullato un tour per, se non ricordo male, crisi d'ansia, insomma, delle robe del genere. Credo che non la sentiremo più suonare. Infatti Jack White ormai va avanti con dei progetti solisti, mentre Jack White vale la pena ascoltarselo, perché praticamente i White Stripes sono così, la butto lì, butto una bomba, è il suono delle Zeppelin riveduto e corretto, insomma riaggiornata. Quella chitarra lì è la chitarra di Jimmy Page, le sonorità, anche i brani ricordano per certi versi certe strutture delle Zeppelin. Qui lo dico e qui lo nego. Andiamo avanti, perché vi voglio far sentire una storia triste, purtroppo triste, di una grande batterista che è Karen Carpenter, dei Carpenters, duo molto famoso, paladini del easy listening si chiama, quindi di quel pop radiofonico di diversi anni fa, insomma stiamo parlando anche in questo caso degli anni 70, e lei è anche cantante di questo duo, erano lei e il fratello praticamente. Poi lei ha avuto, praticamente ha fatto una brutta fine per, si chiamava anoressia nervosa, insomma aveva dei seri problemi mentali, povera ragazza, insomma una storia familiare molto triste, ma non siamo qua a parlare di cose brutte, parliamo di cose belle, perché questa ragazza molto carina e tutto sommato talentuosissima, quindi una che sulla carta aveva tutto, perché era graziosa, era ricca di talento, era ricca anche di denari, perché i Carpenters hanno dominato le classifiche pop negli anni 70. Purtroppo, come capita spesso alle donne e agli uomini baciati dalla fortuna e dal talento, finiscono male, perché chissà per quale motivo non si riesce a capire, si entra in una spirale o di solitudine o di problemi familiari, insomma, quel che l'è. Comunque lei cantava con una voce da usignolo bellissima e sapeva suonare la batteria in maniera assolutamente magistrale. Io ho scelto forse il brano più famoso, che è Close to You, che non è un brano loro, è un brano di Bacharach che loro hanno ripreso, non aveva avuto successo. Quando l'hanno fatto loro, rifatto loro, insomma coverizzato, è diventato un successo nazionale negli Stati Uniti, ma ovviamente un successo mondiale. Ascoltate la leggerezza del tocco di Close to You di Karen Carpenter. Io intanto lo faccio partire perché l'introduzione è molto molto lunga. Ovviamente stiamo parlando di una batterista degli anni 70, quindi siamo nella sfera di quasi del pionierismo, Suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls could sound follow. Like me, they long to be close to you. is why all the girls in the town follow you. Close to you. Allora, ve la ricordate questa? Qualcuno se l'è ricordata? Avete sentito la leggerezza del tocco della batteria, come accompagnava questa canzone bellissima? Sembrano le canzoni dei Platters, no? Quei lentoni da ballare. Quanto ci mancherai, Karen Carpenter? Gran peccato. Insomma, cambiamo però immediatamente genere, svoltiamo totalmente e andiamo a parlare invece di una roba totalmente differente. Sandy West. Sandy West era, secondo me, bellissima. Anche lei... C'ho una tosse, ragazzi, che non mi passa. Questa umidità malvagia mi sta uccidendo. Deve finire, va bene. Poi, quando ascolto le canzoni, non mi viene la tosse. Appena inizio a parlare, è automatico, ma sempre così. Allora, dicevamo, Sandy West era bellissima. Cercatevi le sue foto. Una bambolina, perfetta. Però era una grandissima batterista. Batterista di chi? Beh, delle Runaways. E con le Runaways, Runaways vi dirà forse un po' meno, ma se vi dico Joan Jett, qualcosa vi deve far suonare per forza alle orecchie. E allora lei era una batterista potente, una precisa, una che suonava giù dritto e non aveva paura di niente di nessuno, infatti ha inciso un sacco di pezzi della Madonna. E ascoltiamoci rapidamente, senza perdere troppo tempo, il più bello secondo me delle Runaways, che è questa Cherry Bomb! Sandy West, potentissimo, avete sentito un drumming assolutamente impeccabile. E qua appunto questa è l'ennesima riprova, perché se probabilmente uno dice è un uomo o una donna, ma cosa cavolo c'entra? Hai sentito come suona? Perché molti, adesso lo dico, molti colleghi fanno sempre i sorrisetti quando parli di donna alla batteria, dicono sì è una donna un par de ciufoli, hai sentito come suona? Non conta essere un maschio o essere femmina quando si affronta uno strumento. Purtroppo lo devo dire, c'è un pregiudizio diffuso, ma semplicemente per mancanza di abitudine. Nel senso, troviamo perfettamente normale vedere una ragazza che suona il violino, troviamo perfettamente plausibile scoprire che quella violinista che tanto ci sembra brava è considerata dalla critica mondiale una delle massime violiniste della storia, troviamo perfettamente normale scoprire che esistono delle grandissime irraggiungibili pianiste, troviamo perfettamente normale vedere una ragazza che suona l'arpa, vedere una ragazza che suona il flauto, ci fa strano vedere una ragazza che suona, che so io, il sax, il contrabbasso o la batteria. Ma per quale motivo? Forse perché sono strumenti che sono fisicamente un po' impegnativi? Perché il sax baritono magari è uno strumento grosso, perché la batteria è uno strumento fortemente fisico, il contrabbasso è uno strumento fisico anche, ma non c'entra niente, perché poi l'attitudine musicale viene fuori. E naturalmente più si va avanti, e per fortuna si vedono sempre più donne sedere dietro i tamburi, e tra un po' nascerà, sono certo, il nuovo astro della batteria, e sarà una donna. Chiusa questa piccola parentesi quasi polemica nei confronti dei miei colleghi che sorridono sotto i baffi, passiamo a un gruppo di donne pazzesco. Loro sono le Sleater Kinney, fanno parte di quel movimento, si chiama punk grrr, no? Cioè molto femminista, molto potente, anche molto incazzato. La loro batterista è una piuttosto tosta, si chiama Janet Weiss. A me non faceva impazzire perché non ha grossissime particolarità, diciamo, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista stilistico, però mi piace molto la musica che hanno fatto e mi piace molto questa rabbia, questa potenza nella batteria. Allora, visto che stiamo facendo una carrellata, una panoramica di grandi batteriste, andiamo a sentirci Dig Me Out di Sister Kinley. Vamos. Janet Weiss. Yeah. Che robetta, signori, eh? Che robetta, voglio dire. Allora, alla faccia di chi mi parlava di poca energia nelle donne, ecco, questa è la risposta che posso darvi. Avete sentito un'altra grande batterista, un approccio assolutamente interessantissimo allo strumento, una tecnica divertente sul rullante, un bel passaggio sui tom e sui timpani, insomma, un modo di suonare secondo me molto molto originale. Certo, come ho detto prima, non c'è, come dire, qualche nota tecnica particolare che ce la fa risaltare nel panorama dei batteristi mondiali, però senza ombra di dubbio c'è un approccio personale e c'è un grande gusto musicale nel suonare anche in un genere così riot, così arrabbiato, insomma, si è sentita secondo me questo, non so, questo approccio un pochino più diverso da quello che potrebbe avere, a mio avviso, un uomo che invece copia altri uomini. Va bene, detto questo, vi faccio ascoltare un'altra grandissima artista, perché come sempre mi rendo conto che ci stiamo avvicinando balzellon balzelloni alla chiusura di questa nostra puntata. Io, maledizione, avrei voglia di parlare con voi per delle settimane, non per delle ore, per delle settimane intere. Certo, lo so, vi trifolerei le scatole, ma insomma, come dire, mi fa piacere passare il tempo in vostra compagnia e spero che la cosa sia assolutamente reciproca. Allora, parliamo ancora di un'altra grande batterista, che è Hilary Jones. Hilary Jones è una session woman, non si dice session man, si dice session woman. È un'altra di quelle batteriste che ha studiato tanto, è una preparatissima, è una che ha suonato davvero con un sacco di grandi artisti. In particolare ha suonato con uno che a me piace da matti, uno che io considero uno dei padri del nuovo blues, insomma del blues contemporaneo, che è Robin Ford. E nel pezzo che ho scelto di farvi ascoltare, che si intitola Midget Match, che adesso io non vorrei tradurlo, ma insomma midget mi sembra voglia dire tipo nano, insomma, comunque midget match forse vuol dire partita dimezzata, non lo so, non sono purtroppo, ahimè, esperto di slang, ma per chi conosce la musica di Robin Ford riconoscerà secondo me l'influenza musicale di quest'artista in questo brano, che ricorda tantissimo Bust It Up. È un brano suonato con gli accenti molto spostati. Quindi è un brano che è scritto in quattro, la struttura musicale è un quattro quarti, ma è suonato con gli accenti spostati, che lo rende in qualche maniera instabile. Ecco, la parola giusta è instabile. Somiglia in parte a un tempo dispari, ma è un tempo assolutamente pari. Allora, ascoltiamoci la grandissima Hilary Jones con Midget Match. Vamos! We'll be right back. questa, amici miei, è una che fa il mazzo a tarallo a buona parte di tutti i batteristi che io conosco e anche quelli che non conosco, perché avete sentito come diamine suona questa ragazza qua. Ci ha messo tutti a posto, tutti zitti, orecchie basse. Già dall'introduzione, poi riascoltatevelo questo brano, la playlist la trovate sulla pagina Facebook. Già dall'intro potete riascoltare la capacità di padroneggiare delle figure come il Paradiddle, di cui magari parleremo, forse l'ho accennato altre volte, non l'ho mai spiegato, ma adesso non c'è tempo. Comunque è questo gioco di doppi colpi, di scambio fra cerchio del rullante, Charleston, tutti questi accenti spostati. È bravissima, è una che ha veramente un controllo dello strumento straordinario, strepitoso. Ed è, questo era un pezzo ovviamente che ammiccava al rock blues, ammiccava al fusion, insomma, io ci ho ritrovato molto Robin Ford, ma insomma poi magari sono le mie piccole fissazioni. Allora, stiamo avvicinandoci alla chiusura, parliamo un attimo di cose anche un pochino più contemporanee, di una tendenza che per me è deprecabile, adesso lo dico ad alta voce, non mi piace tantissimo ed è il motivo per il quale appunto molti dei miei colleghi sorridono quando si parla di donna alla batteria, ovvero sia la tendenza di molte giovani batteriste molto avvenenti, molto carine, a postare i loro video su YouTube mentre eseguono delle cover di pezzi famosi. Ce ne sono, ad esempio c'è la adesso è famosissima Meital Cohen, che a me proprio non va giù, non so, Lux Drummeret, ce n'è un'altra, fa impazzire, una ragazza coreana molto bella, per carità, tanto di cappello, si chiama Ah Yeon, e poi ce ne sono Emmanuel Caplet, che veramente forse ecco l'unica davvero dotata di un po' di talento, Emmanuel Caplet. Questa Yeon, ragazza, ripeto, coreana, bellissima, straordinaria, molto sexy, si diverte a fare questi video postati su YouTube dove lei esegue, ad esempio uno ha spopolato è la cover di Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses. Lei suona così e così, però lo fa in lingerie, lo fa in lingerie piuttosto succinta, piuttosto provocante, e questo fa totalizzare i suoi video milioni di visualizzazioni, proiettandola diciamo come una web star, però in realtà poi la sostanza è poca. Anche la stessa Meital Cohen, sì, è brava, per carità, sa suonare, però le batteriste che vi ho fatto ascoltare io le mangiano in testa e a occhi chiusi. Meital Cohen è una bravina che esegue delle cover, ma oddio, sinceramente io non ci vedo niente di straordinario, è una che sa suonare bene la batteria, ma insomma siamo lontanissimi dal poterla definire una grandissima artista. Comunque sia, siamo arrivati alla fine di questa ennesima puntata, io faccio partire l'ultimo brano, così vi racconto anche di chi stiamo parlando, perché chiudiamo ovviamente con la bandiera tricolore. Non manca una grandissima artista italiana che è diventata famosa nel mondo, di batteriste italiane ce ne sono tante, le vedo anche al mio locale a Ligera, le saluto tutte, saluto se mi ascoltasse, non si sa mai, la Grace, che trovo una batterista bravissima. Questa invece di cui andiamo a parlare è Alessia Mattalia, torinese. Il brano che vi ho messo è un brano che ha vinto un Grammy, e alla chitarra c'è niente poco di meno che il signor Jeff Beck, e ai tamburi c'è la nostra italianissima Alessia Mattalia. Vi saluto, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia ancora questa volta, ci sentiamo la settimana prossima, Into the Groove, Radio 23.